tuo programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ditemi un po' cosa vi ha fatto riflettere di più questa settimana, qual è stata la notizia, avete detto, ho proprio voglia di commentarla, l'avete commentata magari in famiglia, con un amico, con un collega, con la prima persona che avete conosciuto sul tram. Questo, lo sapete, è lo scopo ogni volta qui il sabato con me, con voi, di fare un bilancio dei fatti della settimana e di avere lo spazio per esprimere le vostre libere opinioni che magari durante la settimana sono rimaste lì un po' inceppate, un po' inibite. 800 24 00 24. Infatti sono moltissimi anche questi giorni, non ve li posso ricordare tutti, sono infiniti, però sappiamo, siamo in mezzo a ormai abbastanza conclamata crisi politica, cioè continua anche la crisi economica, l'Italia cresce, leggevo ieri la metà, diciamo, per quanto riguarda il PIL, il prodotto interno lordo, la ricchezza del paese, la metà più o meno della media europea. I fatti di Pompei, la sospensione di Feltri, direttore editoriale del giornale, dall'ordine dei giornalisti per 3 mesi, insomma, non può scrivere. La questione Califano, che ha chiesto aiuti economici, ha chiesto la legge Bacchelli, che sapete, per gli artisti che sono caduti un po' in malora, così dopo tanti meriti, se è il caso suo o no, lo direte voi. Veleni a Milano, il tassista che sempre a Milano è morto dopo un'agonia di un mese, poi le questioni internazionali e poi anche, non so, il programma Fazio Saviano, le polemiche di nuovo braccio di ferro tra la RAI, cioè il direttore generale Masi in particolare, e gli autori del programma, gli ospiti che ci saranno. Se avete sentito che ci sarà Fini e Bersani, allora Masi prima voleva impedirlo, poi però dice no, allora per par condicio invitate anche i leader degli altri partiti, del PDL, della Lega, dell'UDC, dell'Italia dei Valori, eccetera eccetera. Ma prima di tutto non perdiamoci il rito iniziale di dirci che cosa ci conferma ogni volta che non ci sono più le mezze stagioni. Allora, voi sapete che c'è la giornata internazionale di qualsiasi cosa, no? Dalle malattie, dai disturbi più diffusi, alla memoria, la giornata della memoria naturalmente dedicata alla Shoah e mille altre cose. Ebbene, adesso c'è anche la giornata mondiale internazionale, che si celebra il 19 novembre, non proprio oggi, però ve lo anticipo nel caso fosse di vostro interesse. Si celebra il 19 novembre la giornata internazionale della toilette. Questa idea straordinaria è venuta in mente a una marca francese di WC di lusso. Io immagino che a casa vostra avete sicuramente un WC di lusso, quindi per celebrarlo anche in quella giornata, 19 novembre, contro questo sovraffollamento di giornate dedicate, insomma, hanno deciso di escogitare anche questa giornata della toilette. Però oggi si celebra invece una giornata molto importante, non legata, per carità, eventi storici, a questioni drammatiche oppure non so, a delle iniziative meritorie, ma è la giornata per i francesi, giornata mondiale in realtà, la Francia la festeggia quest'anno, della gentilezza. Io non ho dubbi, voi non ho bisogno di dirlo perché sono tutti gentili gli ascoltatori e le ascoltatrici di Non ci sono più le mezze stagioni, però vogliamo provare anche oggi, così, diciamo, nelle ore che scorrono nella nostra quotidianità, a provare a mettere in atto la gentilezza. Se pensate che è nata in Giappone il 13 novembre, data di oggi, del 1998, no? In realtà questa giornata per volontà del World Kindness Movement, il movimento mondiale per l'infanzia, poi esportata nel mondo anglosassone, l'iniziativa in realtà in Francia è soltanto la sua seconda edizione, facciamola anche nostra, no? Tutte le giornate che abbiamo, persino quella della toilette, direi che una giornata mondiale della gentilezza la possiamo accogliere tranquillamente anche in Italia, visto che di gentilezza, insomma, soprattutto negli scenari pubblici, ecco, diciamo così, ce n'è un po' poca. Allora, mentre voi pensate a qual è la notizia che vi ha colpito in particolare in questi giorni, l'aspetto sul quale volete ritornare, che sia politica, che sia cronaca, quello che volete, 800 24 00 24. Vi ricordo appunto il numero verde, ma prima di tutto, signore e signori, chi mi aiuterà, chi ci aiuterà, insomma, a commentare i fatti di oggi? Ebbene sì, il mio opinionista estemporaneo di oggi è Massimo Fini. Buongiorno Massimo. Cos'è, un gullo di tamburi quello? Eh sì, caro, per persone importanti, solo per le persone importanti lo faccio, mica per tutti. Massimo Fini, infatti, è scrittore, giornalista, autore di molti libri di successo. Ancora oggi, pensate, vengono ristampati, per esempio, Il denaro sterco del demonio, Manuale contro la donna a favore della femmina, il mio maschilista preferito, tra l'altro, Massimo Fini. E poi è direttore della Voce del Ribelle, è il sito del mensile di cultura e informazioni il Ribelle, quindi un giornale online e cartaceo. E poi è anche autore, attore di una pièce teatrale, Cyrano, se vi pare, che mi pare tu stia per fare il seguito o no, Massimo? No, ci stiamo lavorando, ma non è detto che ci riusciamo a farlo. Beh, insomma, possibilista, senza dare per scontato. Ultimo libro pubblicato da Chiare Lettere di Massimo Fini è Senz'anima 1980-2010, che non è la bella Senz'anima di Cocciante, ma è questo bel paese che è l'Italia, i suoi ultimi 30 anni, e tu racconti come è antropologicamente cambiato questo paese. Sì, no? Tu per esempio parlavi prima della gentilezza, ecco, usiamo un altro termine che è quello di della cortesia, della grazia, della buona educazione, della dignità, eccetera. Ecco, sotto questo aspetto l'Italia ha avuto un'involuzione spaventosa, insomma. Io mi accontenterei della buona educazione. Certo, perché già quello sarebbe moltissimo, sì, in molti casi, infatti. Gentilezza può anche essere una cosa ipocrita. Qualcosa in più. Ecco, ma mi basterebbe la buona educazione. Invece trovo in giro, probabilmente sarò protagonista anch'io senza rendermene conto, non so, perché è un fatto... Che combini. Sì, è una maleducazione estrema. Non so, l'altro giorno la stazione di Bologna ha chiesto un tale che era lì a cosa, dice, scusi, ma lo sportello o un passante? No, eravamo lì sul binario. Ah, no, io arrivavo di trafelato, ho chiesto a uno che stava aspettando, dice, è questo il treno per Milano? Dice, ci sono i tabelloni. Sì, ho capito, so anch'io che ci sono i tabelloni, non te l'avrei chiesto, cretino. Che risposte stupide, no? È vero, capita spesso, uno può dire no, guardi, non lo so, mi dispiace, tutto, sì, lì, no? Sì, proprio non lo sa, ci sono i tabelloni. Insomma, così parsimoniosi anche di proprio quisquigli, di informazioni così di poco conto, ma che possono essere di estrema, sì, no, utilità. No, facevo questo esempio per che insomma c'è una mancanza proprio di, al di là della questione della buona educazione, di attenzione all'altro, di cosa, tutti hanno molta fretta, evidentemente, tutti abbiamo molta fretta e quindi tiriamo via per non so quale strada e non vediamo gli altri, insomma. Senti Massimo, ma secondo te, appunto, è vero, no, questa fretta terribile soprattutto nelle metropoli, Milano e altre città, ma non solo? Certo, devo dire che si scende un po' più tra l'Emilia Romagna e la Toscana, già le cose cambiano, sì. Io ci vado spesso e ci sono altri ritmi, c'è anche un altro modo, non è un luogo comune, no, è ovvio che questa è una cosa che coinvolge in particolare le grandi città, ma soprattutto il nord. Milano poi non ne parliamo, ma secondo te si andrà sempre più di fretta come un film di Ridolini, prima o poi, cioè, sì, siamo destinati alla fretta sempre ulteriore? Diciamo, in termini generali, la globalizzazione, che è una competizione spietata fra stati, costringe tutti a andare sempre più veloce. Stringi gli stati, andare sempre più veloci, le popolazioni andare sempre più veloci per competere, perché noi dobbiamo competere. Ma per competere con la velocità della luce, tu intendi? No, per competere tra di noi. Questo è un sistema, non da oggi naturalmente, basato sulla competizione, e quindi non c'è mai tempo per altro, oppure sono... uno si stravacca semisvenuto davanti alla televisione, dove poi si addormenta o sviene di nuovo, perché è invedibile la televisione italiana. Senti, a proposito di televisione italiana non vedibile, il programma Fazio Saviano, sai che ha fatto un grande successo, sì, più di 7 milioni di ascoltatori, adesso lunedì ci sarà la prossima puntata, però già ieri polemiche roventi sul fatto che ci saranno Fini e Bersani, il direttore generale Masi ha detto no, i politici non c'entrano in questa trasmissione, poi vedendo che non c'era molto da fare ha detto però allora dovete invitare anche gli altri per par condicio, che ne pensi? Ma è evidente che se tu ne fai una tribuna politica, un manuale Cencelli, una trasmissione perde qualsiasi mordente. Cioè Manuele Cencelli che ognuno tocca la sua piccola bricia, esatto, dice sì, no, bisogna fare liberamente. A parte il fatto che poi ci sono quelli a cui non tocca mai nessuna bricia. Ah certo, quelli che tocca le torte giganti. In Parlamento, magari non so, c'è un 38% di italiani che non vota, e quelli, vabbè. Ma il problema, come sa anche l'ascoltatore, è di fondo, cioè finché ci sarà una RAI dominata completamente dai partiti, si porranno sempre questi problemi. D'altro canto, non si può smantellare la RAI se prima non si smantella l'oligopolio Berlusconi. E quindi è una situazione che va bene in realtà a tutti i politici, naturalmente non al cittadino, di qua a Mediaset in mano al Presidente del Consiglio e di qua alla RAI in mano ai partiti, fra cui anche quello naturalmente il Presidente del Consiglio. Una situazione che non ha uguali in nessuna parte del mondo, insomma. Massimo, sta crisi secondo te si consuma o no? I tempi ci sono, ti sembra che ormai siamo arrivati proprio al duello finale? Com'è? Non so, nella pur sciagurata Prima Repubblica sarebbe già conclusa una vicenda di questo genere, perché è ovvio che non c'è più una maggioranza politica, forse neanche numerica, solo che quello non se ne vuole andare, quindi finché buono se ne va. Insomma. Senti, tra l'altro, Mémoire de Deluge. Tra l'altro, con i tuoi francesismi, ti cito il titolo di prima pagina del giornale, caratteri cubitali, Berlusconi può ancora infilzare Fini. Può ancora infilzare Fini. Tu me lo chiedi sul piano del buon gusto o sul piano del se effettivamente può infilzare Fini? In tutti e due i sensi, guarda. Ma, o anche guarda, se ce ne fossero io 10. Trovo abbastanza deprimente il tono totalmente volgare che hanno assunto molti giornali, insomma, e non so. È ritornata la gnocca, i codici su giornali, ripeto, non stiamo parlando di giornali di gossip di quarto ordine, sì. Giornali nazionali, grandi nazionali, in quanto al fatto se Berlusconi può infilzare Fini, può darsi, non lo so, io questi avrà un uncino da qualche parte, io questi arcana imperium e ti dirò anche non mi interessano. Strano, guarda. Però Massimo, strano, perché adesso leggo sulla pagina di Repubblica.it Veggenti, si può, così l'uomo predice il futuro. Adesso io non so perché tu non sia capace di farlo, è una ricerca americana, però adesso mentre vi ricordo il numero verde al cui c'è tra poco Luca dalla provincia di Udine, il numero verde è 800 24 00 24 per commentare insieme i fatti della settimana, come sempre un punto di vista extraterrestre. Riflessioni da Marte. Qui da Marte si è potuto chiaramente vedere anche questa settimana, puntando il telescopio sul globo terracqueo, che la guerra continua, inesorabile. Non quella in Somalia, non quella in Afghanistan, né tantomeno quella in Iraq, ma quella dei due separati. Vi ricordate la guerra dei Roses, ovvero Fini e Berlusconi. Sentite un po' che aria pesante tira. Clima cuperrimo, insomma, ci si trova in una crisi a tutto tondo, una crisi che più crisi non si può, perché è una crisi politica nazionale in una crisi economica mondiale. E si sa che quando si è in crisi. Quando inizia una crisi è un po' tutto concesso, quasi come a carnevale. Quando è in corso una crisi dimentico tutto e posso farmi perdonare. c'è anche insomma una guerra in atto di mozioni e anche di emozioni, quindi evidentemente persino Pompei cede, città tapina e sfortunata, perseguitata dal destino. Sembra ieri che il Vesuvio eruttò, era solo il 79 d.C. del resto, e adesso chissà quale misteriosa forza, gli inquirenti dicono forse quella di gravità, ne sgretola le residue vestigia. Ma mentre tutto questo fatalmente accade, mentre ci si mette davanti ai fatti di cronaca nera come davanti allo show del Grande Fratello, provando a decidere da casa chi resta fuori e chi va dentro, una buona notizia, la speranza del resto è l'ultima a perire, c'è. In Nuova Zelanda, pensate, un'arma segreta ha liberato dalla microcriminalità l'area pedonale nel centro di Church, di Christchurch, la seconda città del paese. Cosa sarà secondo voi mai quest'arma segreta? Una fionda telecomandata che tira uova marce al primo delinquente che tenta di compiere il suo reato? No, no. O forse un raggio fotonico che polverizza le cattive intenzioni di incalliti criminali? Ebbene no. Sapete un po' cos'è? Sapete cos'è quest'arma segreta che ha cercato, che ha praticamente quasi fatto scomparire la microcriminalità in Nuova Zelanda? È la musica di Mozart. Incredibile ma vero. L'introduzione di altoparlanti che la suonano nella City Mall ha ridotto drasticamente i piccoli reati e il comportamento antisociale riportati dai vigili. Pensate, da 77 di questi reati a settimana nell'ottobre 2008 a 2 per settimana il mese scorso. Il numero di incidenti legati a droga e alcol è crollato da 16 a settimana nel 2008 a 0 di quest'anno. Una roba incredibile. E allora, vi devo dire, nonostante io abbia la quasi certezza che tra chi ascolta Non ci sono più le mezze stagioni non c'è neppure un ladro di polli, ma insomma, per scrupolo diffondo a mia volta, permettetemi, questo elisir di legalità. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi per commentare insieme i fatti di questa settimana. Tra l'altro un'ottima notizia è arrivata, sperando che sia definitiva, la liberazione di Aung San Suu Kyi, sapete la leader dell'opposizione in Birmania, che è stata anche premio Nobel per la pace, da 15 anni agli arresti domiciliari. Si spera che questa volta sia quella definitiva, che non basti uno starnuto di Aung San Suu Kyi per rimetterla in prigione. Cominciare con le vostre telefonate al numero verde 800 24 00 24, non prima di avervi ricordato che il mio opinionista estemporaneo di oggi è Massimo Fini, scrittore, giornalista, saggista, l'ultimo libro Senz'anima si intitola, 1980-2010, gli ultimi 30 anni di questo paese. Luca, dalla provincia di Udine. Pronto, buongiorno. Buongiorno Luca. Senta, io volevo chiedere un'informazione. Ah, anche quando, tu vuoi chiedere se questo è il treno per Milano? No. No, non voglio chiedere. Sì. No, volevo chiedere, sì, quando voi avete iniziato la trasmissione, ha chiesto un po' tutti i radioascoltatori quale fosse, secondo noi, la notizia che più ci ha colpito, quella che riteniamo più interessante, certo, nell'arco della settimana. Ok, allora ha presentato anche dei piccoli esempi, voglio dire, quelli di cui forse si è parlato di più durante l'arco della settimana. Sì, è chiaro che io do proprio un sunto brevissimo e poi vi dico, potete spaziare su tutto, certo. Abbiamo parlato del crollo di Pompei, purtroppo, della crisi Fini-Berlusconi, del PIL, della giornata del bagno, cos'è, la settimana del bagno. La toilette, sì, la giornata mondiale della toilette. Ma sì, questa è stata straordinaria. Ma è dell'alluvione che c'è stato in Veneto? Non abbiamo parlato. Parla di tu, Luca. Non la riteniamo una cosa grave. Quella lì ha messo in ginocchio praticamente quasi una regione, che è una tra le regioni più importanti sotto l'aspetto finanziario d'Italia. Ci sono, oltre alle imprese, alle piccole imprese, ci sono un sacco di persone che sono che stanno soffrendo, chiedo scusa, dei disagi straordinari. Forse non me la sto prendendo con la sua trasmissione, per carità. No, ci mancherebbe, che ho fatto. Un grande ascoltatore di Radio 24, per cui sono un grande estimatore della vostra radio. Però anche ascoltando altre radio, guardando trasmissioni televisive, eccetera, sembra che sia tutto passato in secondo piano. E secondo me questo è una grave pecca della comunicazione italiana. Ma non mi sembra, Luca. In ogni caso, tu stai appunto parlando delle devastazioni del maltempo in Veneto. Guarda, c'è qui un ritaglio che ho preso da Repubblica dell'11 novembre, quindi due giorni fa, no? Dove c'è il ministro Galan, Giancarlo Galan per le politiche agricole, che dice: dai miei concittadini veneti troppi piagnistei, ho apprezzato di più quelli che si sono messi a spalare nel fango. Secondo te è vero? Ci sono stati troppi piagnistei dal Veneto? Dice Galan. Guardi, io dico due cose. Io sono originario, io vengo da vicino a Mestre, un paesino vicino a Mestre. Adesso sono 15 anni che vivo a Gemona del Friuli, ok? Gemona del Friuli, lei sa benissimo che c'è stato nel 76 il terremoto, eccetera. Quindi io conosco benissimo, per aver vissuto nei primi 25 anni in Veneto, adesso sono 15 anni che vivo qui in Friuli, conosco molto bene queste genti, sia le friulane sia i veneti. E voglio rispondere all'onorevole Galan che sicuramente i piagnistei e la mancanza di voglia di spaccarsi la schiena non fa parte delle culture di queste due regioni. Non voglio fare delle polemiche politiche o altro, voglio dire solamente che forse se la stessa cosa fosse successa anche in quantità inferiori in altre regioni d'Italia, e chi vuol capire mi capisce, ci sarebbero state molte più lamentele, molti più piagnistei e molte meno maniche tirate su, diciamo, per lavorare, e forse anche i mass media avrebbero dato molta più importanza alla cosa. Io e noi friulani, penso la maggior parte almeno di noi veneti e noi friulani, perché io mi considero appartenente a due regioni a questo punto, penso che la pensiamo allo stesso modo. Bene, Luca, questa è la risposta che do al signor all'onorevole Galan. Galan, ti ringrazio, Luca. E prima di passare a Elena dalla provincia di Savona, sempre all'800240024, volevo chiedere a Massimo Fini. Massimo, questa storia della PM, no? Fiorillo, sì. Tu sai, sul caso Ruby, era la magistrata che si occupava quella sera in cui sì. Fu arrestata, e poi appunto sembra sia arrivata la telefonata di Berlusconi che diceva: liberate la nipote di Mubarak, che poi l'ha affidata a Nicole Minetti. Fiorillo, sai, è venuto in questi giorni fuori dicendo: il ministro dell'interno Maroni ha mentito quando ha parlato al Parlamento dicendo che tutto a posto, che l'affido seguito delle procedure assolutamente dei criteri corretti, eccetera eccetera. Lei dice: no, non è vero, dice il falso, perché io non avevo autorizzato quell'affido quella sera, che lei era in turno per occuparsi, insomma, del tribunale dei minori. Secondo te è una magistrata coraggiosa o una che si vuole mettere in mostra o questo non lo so. È che il problema è tutto un altro, non è tanto e solo del comportamento della questura. Il problema è le pressioni che il Presidente del Consiglio ha esercitato sulla questura e sul Tribunale dei Minori. Questo è il nocciolo del tutto. Si chiama, non sono pillate come scrivono Libero e il Giornale, questo si chiama abuso di potere in termini giuridici, abuso d'ufficio. Questo è il problema. Se che poi la questura abbia più o meno agito correttamente, seguendo o non seguendo le indicazioni del Presidente, o le voleri o i desiderati del Presidente del Consiglio, è un problema minore. Il problema maggiore è che il Presidente del Consiglio, anche se le cose fossero andate in modo totalmente diverso da quello che desiderava Berlusconi, la pressione sarebbe gravissima, perché la telefonata in sé del Presidente del Consiglio è una pressione inaccettabile, totalmente, che tenta di scavalcare questura e magistratura, in questo caso il Tribunale dei Minori. 800 24 00 24. Elena dalla provincia di Savona, prego Elena. Ciao a tutti, buongiorno Roberto Giordano. Buongiorno a te. Io volevo commentare un po' la faccenda del signor Franco Califano. Sì. Nel senso, io non trovo né giusto né corretto che lui si rivolga adesso, dopo una vita, scusami, tra virgolette, scellerata che ha fatto, aiuto allo Stato che poi dobbiamo pagare noi. Non lo so, ha ancora questo coraggio di aver guadagnato tanti soldi, di non averli messi da parte per un suo avvenire, adesso vuole fare pena? A me non me ne fa proprio pena. Io l'ho sentito in collegamento alla Zanzara, dal dottor Cruciani, lo trovo abbastanza arrogante, prepotente, e tutto ciò che segue nella sua richiesta. Io non sono per niente d'accordo e pena non me ne fa. Ti leggo un pezzettino, Elena, del Buongiorno di Massimo Gramellini in questi giorni sulla Stampa, che lo prendiamo proprio di mira, e diceva: signor, ti leggo proprio solo l'inizio, signor Franco Califano, ha appena saputo che lei è un anziano povero e solo, tanto da essersi appellato alla legge Bacchelli che garantisce un sussidio statale agli artisti in disgrazia. Non mi scandalizza l'attenzione mediatica riservata al suo caso, mentre della povertà e solitudine degli anziani ignoti non importa un fico secco a nessuno, e non punterò il dito su milioni da lei sperperati nel corso della vita in amorazzi, fuori serie e sostanze assortite, fatti suoi, eccetera eccetera, e va avanti, insomma. Quindi evidentemente neanche lui molto propenso, diciamo, a soccorrere Califano con la legge Bacchelli, che appunto sarebbe per gli artisti caduti in disgrazia. Sono d'accordo con lui, perché lui ha avuto le armi per potersi fare una vita decente, per pensare al suo futuro e alla sua vecchiaia. E contro con questo articolo io sono completamente d'accordo. Completamente. Bene, Elena. Allora, Elena, sì. Io ti seguo attentamente, come seguo anche tutte le trasmissioni di Radio 24. Sono una affezionatissima ascoltatrice. Molto bene. Mi piacciono tutte le vostre trasmissioni, tutte. Elisir di lunga vita, grazie, Elena. Comunque, questa di Franco Califano è grossa. Grazie, Elena. Al numero verde 800 24 0024 c'è Manuel dalla provincia di Milano. Ciao, Roberta. Ciao, Manuel. Complimenti per la trasmissione. Poi volevo, guarda, anche salutare Massimo Fini, che è un giornalista che io ho letto dei suoi articoli, io l'ho sempre stimato, è veramente una, secondo me, uno dei grandi giornalisti che vive in Italia, ecco. Massimo, hai sentito così ho sentito, ringrazio, sì. Basta così, non ti imbarazzare, prego. Manuel, sì. Ma guarda, io sono molto contento veramente per la liberazione di Aung San Suu Kyi, come milioni di persone. È una cosa straordinaria, perché insomma, una donna che ha vinto il Nobel per la pace, praticamente ha vinto anche le elezioni in Birmania, aveva riportato la democrazia, poi è stata messa agli arresti domiciliari. Cioè, una donna che ha avuto il coraggio, voglio dire, ha fatto degli anni di carcere per le sue idee, per riuscire a così a difendere un barlume di democrazia che poi potrebbe germogliare in Birmania. Certo. Perché è un paese veramente. Io ho conosciuto una persona che è stata in Birmania. Mi ha detto che lì c'è una situazione disastrosa, cioè c'è una povertà molto diffusa. Questa giunta militare veramente ha fatto delle politiche disastrose, e la stragrande maggioranza dei birmani vive con un dollaro al giorno. E poi è successo questo dramma, che praticamente le persone erano alla fame, hanno organizzato una marcia pacifica, vuol dire, hanno attraversato la Birmania, c'erano i monaci, i buddisti, e l'esercito ha sparato sulla folla. Poi, tra l'altro, volevo dire una cosa: quando c'è stato quel ciclone terribile, che l'uragano Nargis, mi sembra, no? Che ha ucciso tantissime persone in Birmania, e c'era una cosa gravissima che era uscita, una notizia agghiacciante: pare che il centro di rilevamento meteorologico indiano aveva avvisato il governo birmano, questa giunta militare, che era in arrivo un ciclone su quella zona della Birmania. Quindi questa giunta militare poteva salvare tutte queste persone, poteva, diciamo, sfollare la zona, e non l'ha fatto, ecco, non ha fatto evacuare la zona. Quindi è veramente una dittatura terribile, per cui io veramente spero che, grazie anche a persone straordinarie come Aung San Suu Kyi, nasca la democrazia in Birmania, ecco. Io sono contentissimo comunque oggi. Grazie, Manu, è molto bello sentirti contento per una cosa che per molti magari sembrava una cosa lontanissima oppure anche ignorata. Grazie, Manuel, mi piace questa tua contentezza e mi associo. Massimo Fini, c'è diciamo un senatore molto tormentato che è il senatore del PDL Piergiorgio Massida, il quale dice è uno di quelli che potrebbero essere, diciamo, immigrazione dal PDL a Futuro Libertà, no? Però in un'intervista sul Corriere diceva, mi pare ieri, io sono tormentato, non so bene, chiede la giornalista, insomma, che intenzione andrà in Futuro Libertà o no, non lo so, ancora ci sto pensando, dice, perché il mio cuore è con il Cavaliere, la testa è con Fini. Come lo puoi aiutare tu, Massimo? Non Fini con te, Massimo? Sì, no, Fini sbagliato, ecco. Diciamo. Quindi come puoi, so, devo dire che dirimere questo tormento, questo i tormenti del onorevole Massida non mi interessano per nulla, insomma, voglio dire. Beh, sono un po' di comprensione, no? Ma no, ma insomma, non vuoi aiutare. si tratta comunque sia di saltare da un carro all'altro. Io non credo a tutte queste... Io non credo alla democrazia rappresentativa, per cui per me queste storie in realtà... E l'avevi anche scritto in un libro. Vorrei sentire il numero verde Guglielmo, da Torino. Buonasera. Buonasera Guglielmo. Anche a Torino si dice buonasera a quest'ora? Di solito dalla Toscana in giù. Buon pomeriggio. Comunque siamo da Salerno, non siamo da Torino. Ah no, allora c'è stato un piccolo errore. Da Salerno, come va la situazione a Salerno? Col maltempo, sentivo, no? Che tantissime famiglie senza acqua. Ci sono delle zone senza acqua, molte zone senza acqua, insomma. Siamo altre zone agricole che sono ancora allagate, però diciamo che ci rimbocchiamo anche noi le mani. Bravi. Siamo solidali, insomma. Salerno è una splendida città, tra l'altro. Con i veneti che anche loro hanno passato un brutto quarto d'ora. Giusto, insomma. È meglio essere solidali che dire noi sì, loro no, eccetera, eccetera. No, assolutamente, assolutamente. Bene, Guglielmo. Volevo commentare la notizia della settimana scorsa del PM Fiorillo, eccetera, eccetera, della questura di Milano, e volevo semplicemente, da addetto ai lavori, cioè? dire che ci sono delle registrazioni. Che ha detto sei? Sono un ispettore di polizia. Ah. Quindi so che nelle questure, almeno in tutte le questure che io ho girato, qualsiasi telefonata, non solo quelle al 113, ma quelle in partenza e in arrivo, vengono registrate su appositi DVD. Quindi c'è proprio l'audio. Mi sembrerebbe strano che a Milano non funzioni questo sistema, insomma, che è diffuso in tutta Italia. Quindi probabilmente quello che è successo, io non dico che ha ragione uno o l'altro, perché insomma chi dice la verità sa di dire la verità e chi invece dice bugie sa di dire bugie, però ci dovrebbero essere queste registrazioni che... Ci sono in parecchie questure d'Italia, mi sembra strano che a Milano, che è una questura all'avanguardia, non ci siano. Ecco, mi sembra strano che non siano ancora venute fuori queste registrazioni. Per me ci sono le registrazioni e quindi chi dice bugie verrà facilmente sbugiardato. Insomma. Se si vanno a prendere queste registrazioni che tu dici dovrebbero esserci, così. Ci sono. Guglielmo, ti ringrazio, buon lavoro allora, buon proseguimento. Grazie Guglielmo. Arrivederla, complimenti per il programma. Grazie. Massimo Fini, ti risulta, io non sono molto tecnica di... No, l'ispettore ha assolutamente ragione, quindi la controversia è facilmente risolvibile, cioè si ascoltino queste telefonate e si vedrà se il PM ha dato o non ha dato l'autorizzazione a questo strano affido, ecco. Che poi, ripeto, c'è l'altra questione che è quella di una terza, oltre a quella grottesca, la nipote di Nubar, sembra di una commedia di Totò, una cosa di Ridolini, purtroppo non c'è niente da ridere, l'altra questione è che questo è un finto affido, chiaramente, perché questa signora non si è occupata minimamente della ragazza e anzi l'ha ricacciata proprio nell'ambiente in cui non avrebbe dovuto stare. 800 24 00 24, adesso sentirò Ivana tra pochino da Torino. Volevo leggere quest'ultimo lancio di agenzia, che è una dichiarazione di Dario Franceschini, che è capogruppo del PD alla Camera, che dice: il governo non c'è più, bisogna andare avanti e prepararci in fretta a fare un governo di transizione e impedire che si torni a votare con questa legge elettorale, il famoso porcellum, insomma. Io penso, dice Franceschini, che entro l'anno questo nuovo governo ci sarà già, quindi lui è un po' più preveggente di Massimo Fini, visto che questa ricerca americana dice che gli esseri umani possono prevedere di essere veggenti. Ivana da Torino. Buongiorno. Buongiorno Ivana. Buongiorno. Senta, io volevo richiamare un attimo l'attenzione rispetto a quel signore che ha parlato dal Veneto. Sì. Premetto che sono piemontese, che ascolto sempre Radio Padania Libera. È una roba tremenda. E mi chiedo... Cioè, una roba tremenda cos'è? Radio Padania? Radio Padania Libera, una roba tremenda. E perché l'ascolti? L'ascolto perché voglio sentire cosa dicono. Ed è una cosa è un classico meccanismo. Che insinua veramente nelle persone... come io sono piemontese, ci tengo a dire questo. Mi vergogno di appartenere a questa etnia a questo punto. Quindi lui non si stupisca tantissimo se non c'è tutta questa solidarietà intorno alla regione Veneta. La mia ce l'hanno, la solidarietà, sicuro. Però se continuano a fare e a seminare tutto questo odio, questa gente, non si possono poi chiedere perché non ci sia solidarietà intorno a loro. Avessero un pochino di più di senso dello Stato e delle istituzioni. Lo Stato a questo serve anche. Nel momento in cui c'è una calamità, ecco che lo Stato interviene. E non possono pensare che quello che dicono cada così. Sono dei seminatori di odio. Dici lì a Radio Padania, dici tu. Senz'altro, la Lega in generale, seminano odio, non si stupiscano se poi raccolgono questi frutti. Ivana, comunque, se non ti vuoi arrabbiare, tu senti Radio 24, che ne è? Così, no. Disinteressato, diciamo, butto lì. Va bene, grazie Ivana. Ciao Ivana. Da Genova c'è Alessandra. Pronto? Alessandra, eccoci qua. Roberta, buongiorno. Io sono una Radio 24 dipendente. Mattina, buongiorno. È una patologia era piuttosto notte, diffusa. Sì. Repliche della notte, tutto. Bene. Vabbè. Dunque, io volevo intervenire su quella poco fa è parlato una signora a proposito di Califano. Elena, dalla provincia di Savona, sì. Penso questo, io penso che nella storia ci sono stati grandi artisti che hanno avuto anche una vita scellerata, una vita tutt'altro che ammirevole. Ora io penso che se Califano ci ha dato delle emozioni, ci ha dato qualche cosa, lo Stato sia anche generoso e dia queste cose. Io non penso che ci debba essere un dote adesso andare e avere sempre. Io, la mia opinione è questa, non che ammiri Califano, come personaggio non mi piace, però io penso anche che può che ci ha personalmente ha dato delle cose, ci siamo sentiti bene qualche volta con lui e siamo anche generosi, io la vedo così. Alessandra, senti, ti piace anche Roberto Baggio? Sì, no, il calciatore? Abbastanza, per quanto io possa capire poco di calcio, ma sì. No, no, sì. Ma più come uomo, perché in realtà questa settimana è stato premiato come uomo per la pace da un gruppo di premi Nobel per la pace. È stato dato un premio molto prestigioso internazionale perché lui, diciamo, nel silenzio ha fatto moltissime opere, iniziative meritorie, no? A favore degli altri. Adesso leggevo questa agenzia di qualche istante fa che lui si dice contentissimo per la liberazione del leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi e dice sono felicissimo, andrò presto in Birmania. Insomma, per un calciatore non voglio essere, però diciamo che nella media è ecco, un sì, calciatore un po' inusuale. Io ricordo Sivori che era una persona nella media, in effetti abbiamo tanti esempi che qua non è caso di citare, che tutt'altro che Roberto Baggio. Ecco, diciamo, viva Roberto Baggio. Grazie Alessandra. Grazie a te Roberto, buona giornata. Grazie a te. C'è sempre il numero verde 800 24 00 24, Valerio da Rieti. Buon pomeriggio Roberta. Buon pomeriggio a te Valerio. Buon pomeriggio. Allora, io volevo solamente fare approfitto anche della presenza del signor Fini per sì. fare una boutade su Berlusconi. E sono un ascoltatore. Ricordo, scusa Valerio, che non ho Gianfranco Fini, ma Massimo Fini in collegamento. Massimo Fini, assolutamente. E ascolto molto Radio 24, soprattutto la Zanzara, e soprattutto lei, perché sono due trasmissioni veramente belle e le faccio i complimenti. Grazie, Valerio. E mi fa sorridere il potere che ha Berlusconi di trasformare fascistoni, come si definisce, come si è definito ieri il signor Strano, in uomini di sinistra. Mi fa molto sorridere questa cosa qui, questo potere che ha Berlusconi, ecco, di trasformare, perché ieri sera sentivo è strano che sia definito lui fascistone, ecco, ammirare Vendola, tutti gli uomini della sinistra eccetera, e disprezzare Gasparri, che sono stati insomma insieme tanti anni al governo, non si ricordava neanche il nome di Gasparri, ecco, solo questo. Valerio, dimmi, a te chi piace tra i leader politici, donne e uomini, che una donna, un uomo che sia? Allora, io ho sempre votato destra perché ho sempre creduto in quella linea lì. Se adesso dovrei andare al voto, voterei Renzi, il sindaco di Firenze. Ah, vedo che mi piace tantissimo, sì, è una persona che parla schiettamente e che mi riconosco molto in lui. Renzi il rottamatore. Sì. Grazie Valerio. Grazie a voi, complimenti. Grazie, buona giornata. Prima di passare ai prossimi ascoltatori, poi abbiamo un appuntamento, quello immancabile, con Stefano Andreoli tra poco. Massimo Fini, sul caso Califano vuole dire la legge è sbagliata, la legge sì, Bacchelli? La legge è sbagliata perché non si capisce perché gli artisti debbano godere di privilegi rispetto agli altri cittadini. E che poi bisogna distinguere anche tra artisti e artisti, bisognerebbe distinguere anche tra l'altro, no? Un po' difficile. ma se poi è molto difficile dire chi è nazista e chi no, non, vabbè, ma a parte questo, cioè può essere vero che hanno dato emozioni, ma anche un operaio che lavora alle presse non dà emozioni, ma ha fatto la sua parte nella società. Quindi la legge a me pare sbagliata. Detto questo, però non mi piace neanche questo fatto che, siccome la chiede Califano, che è un tipo borderline, allora colpisce la legge Bacchelli, quando invece va a qualche signore ritenuto più rispettabile, allora si sta zitti, insomma. Quindi... Beh, invece noi non stiamo zitti, anzi c'è un uomo che non riesco quasi mai a fare... a tacitare, ma diamogli lo spazio dovuto, vero? Ormai me lo sono accollato. Tra l'altro devo dire che anche Benigni lo ha ringraziato nel programma di Fazio Saviano. Mi sento un po' lusingata, dicevo, Stefano Andreoli, il creatore di Spinoza.it, blog satirico più seguito della rete. Stefano? Buongiorno dal tuo seminatore d'odio preferito, eccomi qua. semina con parsimonia, vero? Vai. Tante notizie questa settimana, non si può che cominciare con questo governo sempre più traballante. Non stiamo più insieme, ma questo non impedisce di continuare ad appoggiarlo. Ecco, questa scusa con la mia ex fidanzata non ha funzionato, però potrebbe servire per tenere in piedi il governo per un altro po', giusto il tempo di una finanziaria. Bene, procediamo, sì. Berlusconi intanto è in Asia, si è sfogato col primo ministro vietnamita dicendo: nel mio paese ho dei problemi. Poi ha chiesto: ma serve, funziona davvero il ginseng? Perché si dice possa fare miracoli. Con la sobrietà istituzionale che lo contraddistingue, Berlusconi ha parlato di guerra civile. Ecco, questa direi che è una battuta che si commenta da sola, ma la russa si è subito affrettato a precisare: sarà una missione di pace. Ministro della difesa, questo, del resto, certo. Esatto, missione di pace civile, chiamiamola così. Altre notizie: allagata la Salerno-Reggio Calabria, proprio ora che era finita, che si andava così bene, veramente una piaga dietro l'altra. Poi una notizia direi veramente triste, sì. Torna alla ribalta l'orrendo spettacolo di bambini in tenera età umiliati davanti ai loro coetanei all'asilo di Pinerolo, sì. Ah no, io stavo parlando del programma della Clerice di Gerry Scotti. Ma comunque c'è anche, sì esatto, l'asilo di Pinerolo sotto sequestro, l'asilo di Pinerolo per queste accuse di maltrattamenti ancora tutte da confermare. Le maestre si giustificano: credevamo fossero maggiorenni. Ecco, questa è una battuta che ho fatto abbastanza anche diffusa, settimana. Vero? Sì. Sì, funziona sempre questa battuta. L'apparenza inganna, bisogna dire, sì. La puoi attaccare a tantissime cose. Caso di coscienza, questo è un caso curioso anche a livello etico. Chirurgo si rifiuta di operare un paziente. Un chirurgo ebreo, sì. Dopo avergli visto un'aquila imperiale tatuata sul braccio. Un simbolo nazista, sì. Esatto, ma io pensavo fosse un chirurgo romanista che aveva visto l'aquila sul braccio, però alla fine... Può essere, c'è stato questo malinteso. Alla fine si parla di un ebreo. Comunque è veramente interessante a livello etico discutere questa cosa. Potendone avere il tempo lo faremmo. Dunque chiudiamo con una notizia. Birmania. La Birmania torna al voto dopo 20 anni, elezioni dopo 20 anni, e sono elezioni anticipate, questo è il bello. Finalmente gli abitanti della Birmania saranno liberi di scegliere il proprio dittatore. Ecco, questo è veramente un passo avanti per questa democrazia, ma non si può che chiudere con una notizia finalmente buona. Aung San Suu Kyi, la Nobel per la pace birmana, sarà presto scarcerata dopo anni di prigionia. No, già scarcerata oggi, la notizia di oggi. Già scarcerata, allora sì. non sono aggiornato, pare... che qualcuno abbia telefonato in questura, ecco. Ah, ecco, diciamo. Dicendo che, ma insomma, è stato efficace perché l'hanno liberata. Grazie Stefano Andreoli, censuriamolo. Perfetto, immediatamente. Ciao Andreoli, buona continuazione. E passerei direttamente adesso all'altro appuntamento fisso, immancabile della settimana, che è quello con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Valeria, tra le tante parole di questa settimana io ci metterei l'analisi, da parte tua ovviamente, di emergenza, no? Il termine emergenza rifiuti, emergenza maltempo, sì, emergenza... una parola che ci circonda ormai da molti anni, da tutte le parti. È una parola che esisteva già nel 600 e nei secoli successivi, ma con una sfumatura di significato un po' diversa, perché originariamente voleva dire solo circostanza che si presenta all'improvviso e inaspettata. Poi c'è stato uno slittamento di significato e si è passato al valore con la quale lo usiamo oggi, cioè pericolo in realtà, e questo nuovo significato è risultato dell'influenza della parola inglese emergency, che invece ha questo valore, e quindi ecco che poi naturalmente lo stato di emergenza ha aiutato, e come dicevo c'è stata una diffusione enorme di espressioni composte con emergenza, no? Oramai da molti anni abbiamo l'emergenza sbarchi, emergenza smog, occupazione, droga, beh, insomma criminalità. Potremmo tutto un'emergenza. Continuare, sono tutte emergenze, no? E poi essendo tutte emergenze alla fine un po' si svuotano di significato. Dal punto di vista linguistico è interessante il fatto che il successo della parola emergenza in questo senso ha determinato la nascita di parole che prima non esistevano, quindi ecco che dagli anni 80 esiste emergenziale e poi emergenzialismo e emergenzialista, e quindi ecco che il campo coperto da queste parole si è allargato ulteriormente, e sono tutte quelle che hanno a che fare con l'emergenza, sono tutte espressioni fortemente ansiogene, ma in fondo hanno una loro importanza, perché mi pare che esprimano fin troppo bene lo stato attuale della società italiana. Quindi da una parte la maleducazione di cui giustamente parlava Fini, e dall'altra emergenze da tutti i lati. Grazie Valeria Della Valle. Prego. C'è un'emergenza, siamo quasi in chiusura. Questo è, quindi chiedo a Massimo Fini, anticipo una cosa che gli chiederò, che adesso una dichiarazione di Gianni Letta appena uscita: nonostante tante Cassandre che ci dipingono come un paese in declino, in Italia c'è una realtà scientifica e culturale di eccellenza. Ma prima che concluda Massimo Fini, 30 secondi a Maria da Roma, proprio scusami, devo essere di corsa, corsissima. Maria. Allora, buonasera, io innanzitutto mi congratulo con lei per questa bellissima trasmissione. Grazie Maria. E volevo intervenire dicendo che non occorre essere veggenti o preveggenti, bisogna essere realisti. In questo momento, con questa crisi, noi tutti conosciamo quali sono le condizioni dello Stato italiano, perciò non bisogna andare a nuove elezioni, spendere soldi, anzi sperperare i soldi nostri, perché loro hanno tutti i privilegi, i soldi sono nostri, bisogna devono risolvere loro il problema senza andare a nuove elezioni. Grazie Maria, il dono della sintesi oltre a essere realista. Massimo Fini, in conclusione, questi 33 secondi che ci rimangono. Ma io chi parla continuamente di emergenze gli farei fare uno stage in Afghanistan e forse capirebbero che cos'è l'emergenza vera. Quindi vuol dire tutto è risolvibile in termini un po' più pacati, ma no, diciamo, ma sì, più ma concreti. Noi drammatizziamo tutto, anche perché in realtà in questo paese sostanzialmente, a parte le catastrofi naturali, non succede mai niente, insomma, e quindi siamo portati a enfatizzare qualsiasi cosa. Grazie Massimo Fini. Io scusa, avrei voluto chiederti 2000 cose, se anche Pompei è colpa di Bondi o tutta una serie di cose, ma c'è l'emergenza chiusura in questo momento, devo proprio chiudere, si apre la botola sotto la mia sedia. Massimo, è sempre un piacere comunque. Arrivederci, grazie a te, grazie a voi. Grazie Massimo Fini. Ultimo libro, ve l'ho detto sin dall'inizio, Senza anima, 1980-2010, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.